Femminicidio, una parola che non piace. Come se le parole dovessero essere graziose, gentili, anche quando indicano qualcosa di orribile. Tutte le parole hanno una storia. Questa risale al fenomeno sociale dilagato a Ciudad Juárez, città alla frontiera con gli Stati Uniti, chissà se si pronuncia così, una città povera, dove fa da padrona la prostituzione, la miseria. Dal 1993 al 2006, periodo a cui risalgono i dati rilevati da Amnesty, ogni mese sono ritrovati in media due corpi di donne assassinate, per lo più giovani. Cito. Il termine si definisce come l'assassinio misogino di una donna da parte di un uomo. Un fenomeno sociale legato al sistema patriarcale, nel quale le donne sono bersagli dell'uccisione, sia perché sono donne, sia perché non lo sono nel modo giusto. Nel modo giusto. Perché non si può essere donne a modo proprio. E che non sia un proclama femminista e quindi di parte, lo rivela l'ultimo articolo Pro Fedeltà pubblicato dall'Avvenire, a cui forse non è neanche necessario rispondere. Secondo la deputata federale Marcella Lagarde, che presiede la commissione parlamentare speciale d'inchiesta sugli omicidi di Ciudad Juárez, gli assassini sono uomini che pensano di avere il diritto di uccidere delle donne perché si credono superiori a loro. Questo termine, femminicidio, nasce in opposizione a quello di omicidio. Fatto sta che questa parola, brutta che sia, dice veramente tutto. Per questo abbiamo affiancato le donne romane che ogni settimana, per la precisione ogni lunedì alle ore 14:30, si riuniscono su Ponte Mazzini a Roma, il nefasto ponte dell'infanticidio. Per sfilare con i cartelli che denunciano questa strage, noi, persone libere, per la prima volta, non abbiamo detto nulla. Non abbiamo detto neanche una riga di un libro. Avevamo costruito dei cartelloni che indossavamo. Parole da leggere, da guardare, parole mute. Camminavamo lungo le strisce pedonali ad ogni scatto rosso per gli automobilisti. Quel tempo brevissimo che intercorre tra un rosso e un verde, in silenzio con gli striscioni, coi lenzuoli macchiati di sangue, con un enorme manifesto nero e con le nostre citazioni, mute, perché volevamo che tutti, guardandoci, reggessero il peso di questo silenzio, il silenzio secolare delle donne. Uno dei cartelli riportava un brano tratto da Cassandra, di Christa Wolfe, Cassandra la profeta visionaria, una sorta di regina della notte. Il cartello che portavo io stessa diceva: il mondo abitato, fin dove ci era noto, si era rivoltato contro di noi sempre più crudelmente, sempre più velocemente. Contro noi donne, disse Pentesilea. Contro noi esseri umani, ribatté Arisbe. Ecco, è proprio vero che gli uomini, quelli di sesso maschile intendo, non smettono mai di ripetere i loro errori, anche quelli grammaticali. La differenza di genere è nella voce di Cassandra un timbro speciale, anche là dove esorta la consapevolezza sia uomini sia donne, perché la sua visionarietà è femmina, una voce che si spezza nell'incomunicabilità, perché anche questo è il senso e il segno tragico delle parole delle donne, la caduta. Dice Cassandra di Christa Wolfe: i maschi deboli, ma con il prepotente bisogno di vincere, si servono di noi come vittime per poter conservare il sentimento di sé. Parole che sembrano sentenze e fanno eco al rumore della verità là fuori ogni giorno. In questa assurda preghiera, Padre, dacci oggi il nostro femminicidio quotidiano. Dice sempre Cassandra, occorre combattere il male prima, quando ancora non si chiama guerra. Questo è il guaio. Già, la volontà che manca, il vuoto di politica o il vuoto d'amore. Cassandra sa che Elena è solo una donna pretesto, come sempre le donne. è il fantasma necessario per giustificare l'odio e la violenza, le due parole chiave del potere quando crolla. Ma nessuno ha ragione in guerra. Tutti e tutte ne usciamo sconfitti. La resistenza di Cassandra appartiene all'ordine delle parole che non si devono dire, soprattutto da una donna, una figlia, una possibile sposa e quindi futura madre. Tutte condizioni da controllare, come oggi ripete il Family Day o il sabotaggio continuo della legge 194. Lei, Cassandra, dice ancora no, basta. Lei dice non sto da nessuna delle due parti. Nessuna parte può giustificare l'orrore, perché i nemici sono l'invenzione necessaria per avere ragione, sempre. Ma la ragione, come dice Cassandra, non ha come opposto il cuore. La ragione ha come opposta la vita. Cito, tra uccidere e morire c'è una terza via, vivere. Amo Cassandra, la Cassandra di Christa Wolf, la Cassandra muta in quella giornata sul ponte che torna a cantare, perché chi è profeta non parla, in realtà canta, e per questo è una voce da sentire. È così che abbiamo accolto nel nostro progetto di Accademia della Lettura il lavoro su Cassandra propostoci dal gruppo Festina, un gruppo di giovani che ci piace perché crede nel peso che hanno le parole. Abbiamo scelto di far risuonare tramite la loro versione questa voce nello spazio suggestivo della necropoli della Portuense, quel Draxgallery a Roma che stiamo tentando di trasformare con la sovrintendenza in un polo culturale aperto a tutta la cittadinanza e non solo al quartiere. È buffo, paradossale, una sfida, una scommessa, mettere le voci di Cassandra, perché sono tante le sue voci, nella città dei morti, contigua e così separata in realtà dalla città dei falsi viventi. È uno scenario terribile, come solo sa esserlo la storia con le sue macerie, le sue pietre che raccontano, a eco di una storia che tragicamente segna ancora le nostre vite, come se non fosse cambiato niente. In questi giorni è morto anche Bradbury, il padre ideologico del progetto delle persone libro, o almeno l'ispiratore attraverso Fahrenheit 451 di quello che facciamo. Siamo veramente orfani, culturalmente parlando. E c'è un passo che non cito mai, in realtà, di questo libro magnifico, che non è un libro di fantascienza, ma è un libro di letteratura che serve a tutte le vite, che dice che quando ci domanderemo che cosa facciamo, noi risponderemo, noi ricordiamo. Io credo che sia qui tutto il senso del lavoro sociale, culturale, che bisogna fare da tutte le parti. Fatemi dare alcuni appuntamenti importanti, perché le note di cronaca possono servire a riconoscerci tra la gente indifferente e a partecipare per una cittadinanza più consapevole. Vi ricordo che ogni lunedì a Roma, su quel ponte Mazzini maledetto, alle ore 14:30 c'è sempre permanente un flash mob contro il femminicidio e può partecipare chiunque. Chiunque significa uomini e donne, perché il femminicidio non è un problema delle donne, ma un problema degli uomini. Mercoledì 13 giugno alle ore 18 partecipiamo come persone libro alla serata dedicata appunto al femminicidio, alla festa di Sella a Caracalla. Giovedì 14 giugno alle ore 11 a Piazza Cairoli a Roma c'è una mobilitazione generale promossa da diverse associazioni che si intitola Prima del coraggio, il diritto di denunciare. Migliaia di donne hanno firmato un appello rivolto alla ministra Severino e mandato per conoscenza alla ministra Cancellieri per chiarire e modificare l'articolo 1 del testo unico di pubblica sicurezza. Gli appelli infatti al coraggio, le rassicurazioni verbali, gli avvertimenti sul prezzo del silenzio si fermano sulla soglia di un commissariato o di una caserma dei carabinieri, perché denunciare è difficile. Per la negazione delle risorse alle reti antiviolenza, per la mancanza di alternative di lavoro e perché spesso il violento è il detentore dei mezzi di sussistenza familiare. Denunciare in Italia è ancora più difficile e lo è fin dal primo passo, ovvero la consegna della querela ai competenti, polizia e carabinieri. Sabato 16 giugno alle ore 21 a Roma, nella cornice del Drugstore Gallery di via Portuense 317, come Accademia della Lettura, presentiamo con il patrocinio della Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici le voci di Cassandra a cura del gruppo Festina Lente. C'è solo un particolare che voglio condividere con voi di queste bellissime tombe che io spero possiate venire a vedere. C'è una visita guidata che ovviamente organizziamo per permettere il contatto con queste pietre e queste storie. Nella tomba più grande, e anche forse la più bella, fatemelo dire, molto ben conservata, c'è un pavimento a mosaico bianco e nero. Vi sono rappresentati lungo i lati dei satiri che vendemmiano, alternati a quattro grossi vasi. Al centro campeggia una figura maschile che brandisce un'ascia. Pare sia Licurgo, un personaggio del mito di Dioniso, che assale la ninfa Ambrosia, la quale, per difendersi, si trasforma in un ramo di vite. Ecco, noi non vogliamo trasformarci in un ramo di vite e non vogliamo vivere e condividere la città e la vita rimanendo e restando sempre in questa guerra. Le parole sono tutto quello che abbiamo per dirci. Vale per ognuno di noi, ma per le donne vale di più. Questione di storia. La storia che ci insegnano a scuola non ci comprende. La storia in cui abitiamo ogni giorno ci rende invisibili, o per eccesso di presenze, secondo lo sguardo, desiderio o proiezioni altrui, o per eccesso di mancanza, di rappresentatività, di decisionalità, di potere. La cultura non è neutra, non nei fatti. Voglio chiudere questa breve riflessione facendovi risentire una splendida poesia Emily Dickinson. Non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci. E se siamo fedeli al nostro compito, arriva al cielo la nostra statura. L'eroismo che allora recitiamo sarebbe quotidiano se noi stessi non ci incurvassimo di cubiti per la paura di essere dei re.